e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e a tutti, buon inizio settimana. Oggi viaggio da sola e guido io perché la mia amica Nicoletta Carbone torna domani. Ormai sono abituata ad essere sempre con lei, spero di non fare o provocare qualche piccolo incidente durante la diretta, anche perché la mia unica assicurazione è quella dell'auto aziendale, per cui non so se potrei essere coperta dal caos che potrei provocare. Ma a parte le battute, anche voi ascoltatori oggi mi aiuterete a non fare questo, anzi mi aiuterete quanto più possibile ad animare la nostra trasmissione, perché il tema che affrontiamo, lo dicevamo prima a microfoni spenti con l'ospite che tra poco vi presento, va dritto non al cuore ma allo stomaco di tutti, perché ci fa molto arrabbiare. Torniamo a parlare di assicurazioni e di auto. Il tema vi accende perché in Italia abbiamo le polizze auto più alte d'Europa. Purtroppo questa non è una grande novità, ce ne siamo occupati tante volte, ma ribadiamo queste cifre. In media fra il 2008 e il 2012 abbiamo pagato 230 euro in più rispetto alla polizza che i conducenti, gli automobilisti pagano nei quattro maggiori paesi europei: Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Parliamo cioè complessivamente in media per un'auto italiana di 491 euro, tasse comprese, contro le 278 medie dei paesi che abbiamo appena citato. Questa anomalia è stata recentemente confermata anche da un confronto sul mercato RC auto in Europa che è stato presentato da The Boston Consulting Group, un'occasione appunto che è stata creata, organizzata dall'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione, ed è stata questa un'altra occasione per sottolineare questa voce di bilancio che è davvero un punto dolente per tante famiglie italiane che all'auto non vogliono o non possono rinunciare, ma che si trovano a pagare premi particolarmente salati. Allora, 800 24 00 24, oggi fino alle 12:30 torneremo a parlare di questo tema, cerchiamo di capire se ci sono anche delle novità, perché ce ne sono contemplate dal pacchetto Destinazione Italia. Cosa potrebbe cambiare allora prossimamente? Speriamo in meglio. Torneremo ad analizzare i fenomeni che fanno lievitare questi prezzi. Sedetevi però comodi, perché sapete che qui a Cuore Denari siamo sempre in buona compagnia. Allacciate bene le cinture, perché parleremo di come evitare disagi e dolori in auto per noi e per i nostri piccoli viaggiatori. Con i nostri consigli pratici di cuore parleremo di come evitare fastidi alle ginocchia per chi guida molte ore al giorno, ma vi daremo anche suggerimenti per come far viaggiare i vostri bambini in totale sicurezza e comodità con il seggiolino. Dunque, 800 24 00 24, numero verde per le telefonate in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666, scriveteci su Facebook, su Twitter, e adesso mettiamo in moto la nostra macchina, la nostra trasmissione, e partiamo. Salva Danaio. E te pareva la donna? A Moby Dick, ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, fracicone, ma come io stavo una tanto bella regolare, te che fa, mi inchiodi? E inchiodo sì, c'è star semaforo, tu guidi la cazzo di cane. Ma tu guarda che mi ha combinato sta fagottara. Ma de che, amore, ma se manco te l'ho toccato sto cagatore di macchina. Modena, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te. Ma come te permetti, a pecoraro, a caffone. Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle pare Giuliano Ferrara. Ma vedi annate, una broccola e ma fallo vedere che se notta dopo. Ma fammo morire ammazzata, a te chi tu dice, ma tu guarda sta budellona sul volo. Chissà in quanti di noi si saranno ritrovati in questi personaggi di questo brano, di questo film. Quindi grande concitazione quando appunto si verifica un incidente, subito superata la paura si cerca immediatamente il responsabile e poi ci si cerca subito di immaginare cosa succederà dopo, chi deve andare a riparare l'auto, chi paga, quanto paga. E anche di questo parleremo stamattina con i nostri ospiti. Li presento subito: Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Buongiorno. Ciao Maurizio, ben trovato. E ben ritrovato anche a Vittorio Verdone, direttore auto distribuzione consumatori dell'ANIA, l'Associazione delle Assicurazioni Italiane. Dottor Verdone, buongiorno. Buongiorno a tutti. E buon anno, perché ancora gli auguri a lei non ce li eravamo fatti, e quindi ecco, fino alla fine di gennaio siamo sempre in tempo a farli. RC Auto, un tasto molto dolente, prendendo in considerazione le sole auto, gli italiani hanno sborsato qualcosa come nell'ultimo anno, credo che questa cifra si riferisca al 2013, 526 euro, mentre negli altri paesi europei più 291 euro, quindi c'è una differenza del 45%, differenza simile anche per quello che riguarda le polizze associate alle motociclette, ai motocicli. Abbiamo il costo delle polizze più elevato d'Europa, è indiscutibile, è una situazione insopportabile per il consumatore. Questo l'ha detto il presidente dell'antitrust, Pitruzzella, ma diciamo che probabilmente quanto diciamo tutti noi a casa, quanto dice anche il capofamiglia. Maurizio Caprino, ci ridefinisci un po' i contorni della situazione? Ormai, cioè, ne parliamo da anni di questo problema. Sì, ne parliamo da anni e temo che continueremo a parlare ancora per anni, perché la situazione è assolutamente incancrenita. La cosa ridicola di tutto questo è che in questo momento in cui c'è la crisi e quindi poi si arriva al punto di non ritorno nella questione, con la gente che non si assicura più perché i costi sono proibitivi, beh, proprio in questo momento si tende ad avere drastiche misure di legge, come quelle del pacchetto Destinazione Italia, con gli sconti obbligatori, se si monta la scatola nera, se si rinuncia a determinati diritti, come per esempio quello di scegliersi il carrozziere. Beh, queste sono misure drastiche, discutibili, discusse, e volano accuse reciproche fra compagnie, carrozzieri, medici, insomma è un tutti contro tutti. La cosa bella è che tutto questo, invece, la situazione che si cerca di incidere col Destinazione Italia deriva proprio da una coincidenza di interessi che c'è ancora fra tutte queste parti, non dico a livello centrale, ma sicuramente a livello locale. Cioè, se uno nella sua bella città ha il problema di dover venire fuori da un incidente, quindi riparare l'auto, eventualmente farsi curare, eccetera, beh, si vede che tutti questi attori, invece che litigare, come succede mediaticamente in questi giorni a livello nazionale, beh, a livello locale vanno tutti d'amore e d'accordo e drenano risorse al sistema. Se si sono arrabbiati tutti, però, mi viene l'idea, è evidente che forse questo pacchetto Destinazione Italia sta facendo le cose giuste. Non lo so, mi sono sbagliato tu tecnicamente, qualche deficit però l'hai riscontrato. Assolutamente sì, questo sì. Ne parleremo allora, tra l'altro. Vittorio Verdone, ritorniamo a lei, avremo tutta la trasmissione per commentare il tema delle misure previste dal decreto, appunto dal pacchetto Destinazione Italia. Prima di tutto però le vorrei chiedere, siccome questo rapporto di Boston Consulting l'avete presentato voi nei giorni scorsi in un evento pubblico, appunto, che avete preparato a Roma, un rapporto che dimostra ancora una volta come il problema dell'assicurazione auto in Italia è appunto molto molto rilevante, e avete voi permesso che venisse messo, appunto, che venisse divulgato questo dato molto davvero clamoroso, cioè la differenza di prezzo che si paga tra l'Italia e l'Europa. Come mai avete voluto presentarlo, appunto? Mi incuriosisce questa situazione. Solitamente sono le associazioni dei consumatori, no, che presentano queste statistiche che conosciamo, voi vi arrabbiate, invece questa volta voi per primi l'avete voluto fare. Perché? Ma diciamo, la situazione italiana con le differenze di prezzo è nota da molti anni. Noi stessi più volte, sia in audizioni parlamentari piuttosto che in rappresentazioni pubbliche, conferenze stampa, l'abbiamo sottolineato. L'incarico dato a una grande società di consulenza mondiale è stato quello non solo di verificare con analisi approfondite e rigorose queste distanze, ma soprattutto di andare a scandagliare i fattori causali, perché noi possiamo anche continuare a dire, conveniamo che i prezzi sono più alti, ma se non si fa qualcosa i prezzi continueranno a rimanere più alti, e per fare qualcosa è necessario capire quali sono le cause, e quindi il rapporto va proprio in quella direzione, cioè va a individuare la componente maggiore che differenzia l'Italia dagli altri quattro paesi che sono stati oggetto di approfondite analisi. La differenza è il costo dei sinistri e l'imposizione fiscale. Lei diceva giustamente che c'erano 213 euro in realtà, non 230 media in quei 5 anni analizzati. Adesso magari la distanza è minore, perché in Italia nell'ultimo anno c'è stata una riduzione del 5% dei prezzi effettivi pagati dalla media, ovviamente, della collettività italiana. Ma qual è questa componente maggiore? La componente maggiore è data, tra questi 213 euro, per 180 euro dal costo dei sinistri e dalle tasse. Il costo dei sinistri agisce per 126 euro, le tasse per 52. Le tasse agiscono in due modi: abbiamo le aliquote più alte, siamo intorno al 24, in Europa il 17, e poi perché agisce come un parametro proporzionale rispetto al costo industriale base, che è il premio puro. Dal punto di vista dei sinistri, anche qui è noto, ma è chiaro che Boston Consulting fa un'analisi approfondita in tutti questi paesi, e quindi il dato è obiettivo, cioè non può, anche il nostro lo era in realtà, però il dato è obiettivo perché, voglio dire, è stato individuato con terzietà assoluta. Insomma, la componente maggiore è data dal costo dei danni alla persona. Su questo, diciamo, non credo che ci siano più dubbi, credo che si sia rilevato anche in Parlamento, c'è una commissione d'inchiesta scusate, una risoluzione in discussione alla Commissione Finanze, e lì è risultato in modo lampante che questa distanza è data dai valori di risarcimento economico per i danni gravi alla persona e dai valori di risarcimento economico dei danni non patrimoniali, cioè i danni morali nel caso di sinistri, che pure sono, voglio dire, molto delicati dal punto di vista anche, voi avete, diciamo, sempre etico, fatto danni da morte. Voi avete sempre fatto, dottor Verdone, magari raccontiamolo ai nostri ascoltatori che così capiscono ancora meglio la differenza della quale stiamo parlando, il paragone con la Francia, no? Che a parità di parco auto circolante e anche in una condizione molto simile di manto stradale, diciamo, ha una differenza nel risarcimento in questi campi cui lei indicava, molto rilevante. Sì, assolutamente sì, non solo in questo, anche come incidentalità. La Francia è probabilmente il paese più virtuoso, tra virgolette, come frequenza sinistri, è più bassa che in Italia e anche i valori risarcitori. Poi loro non hanno, come invece l'Italia e ultimamente, ma solo ultimamente, alcuni altri paesi che sono stati oggetto d'analisi, il problema delle lesioni lievissime, perché in Francia sono molto più rigorosi, hanno un corpo peritale medico legale che evidentemente non considera invalidità o lesioni, addirittura alcune situazioni che non meritano. In Italia, nonostante una norma molto utile di uno dei due decreti di liberalizzazione del 2012, per cui si è ridotto effettivamente questo ricorso, diciamo, furbo, no? Alle lesioni quando non ci sono, ancora abbiamo una bella presenza, si tenta di sostituire l'invalidità permanente con altre spese di fisioterapia, spese mediche molto più alte di quelle e qualche volta abbiamo sollevato anche da questi microfoni, Maurizio, non so se sei d'accordo, il problema della connivenza medica, e adesso qua li faremo arrabbiare, però mi pare abbastanza evidente che se non c'è un medico che certifica l'entità di un certo danno, Diciamo che un certificato medico non si nega a nessuno, però risulta è sempre una faccia di quello che dicevo prima, cioè c'è questa straordinaria coincidenza di interessi sul territorio, per cui alla fine non dare un certificato sembra quasi trasgredire una regola. E badate bene, qui non parliamo di frodi organizzate da criminali, eccetera. Lo facciamo tutti noi. Capitasse a noi personalmente, saremmo primi a farlo. Ecco. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta. Raccontateci cosa ne pensate di questo dibattito, quanto pagate per assicurare la vostra auto, le vostre tariffe sono aumentate, sono scese nell'ultimo anno, che cosa avete fatto per cercare un po' di risparmio. Alessandro Gaetani di Economia Familiare, un amico del nostro programma, ci scrive su Twitter: bisogna chiedere più preventivi, più personalizzazione, più sconto, i margini ci sono per risparmiare ogni anno. Peraltro, dottor Verdone, l'IVAS, l'organizzazione appunto del controllo sul mercato assicurativo, ha un preventivatore, no? Che mette a confronto tutte le offerte sul mercato, non è uno strumento vostro, però probabilmente, anzi certamente lei lo conosce, è utilizzato dai consumatori, insomma utilizzano questi strumenti nuovi per paragonare le offerte sul mercato? Ma da tutte le indagini anche che abbiamo fatto di customer satisfaction, quindi siamo andati a verificare un po' i comportamenti all'acquisto da parte degli obbligati a stipulare l'RC auto, risulta un massiccio ricorso alle consultazioni di vario tipo, sia sul preventivatore IVAS, che però è ancora in una, diciamo, in un assetto limitato perché non contempla tutta l'espansione tariffaria delle compagnie, sia sui siti delle imprese che, ricordo, per legge sono obbligate a pubblicare le proprie tariffe e anche a fare dei preventivi in automatico, quindi con sistemi molto veloci. E poi ci sono i cosiddetti aggregatori, cioè ci sono dei soggetti che, avendo avuto a disposizione da alcune imprese le tariffe, possono fare dei confronti direttamente su pluralità di offerte, quindi il ricorso è molto frequente, molto sostenuto. Poi quanto di questo si trasformi in acquisto online è diverso, perché poi c'è anche la possibilità di acquistare online la RC Auto da molti anni, perché poi c'è la struttura territoriale delle imprese, anche l'offerta quindi sul territorio, quindi gli agenti di assicurazione, quindi l'informazione è presente, quindi bisogna dire sempre questo. Alcune volte ancora sentiamo dire che c'è scarsa informazione, la gente non si può informare. No, sull'auto non credo neanche, diciamo, io. Diciamo che forse sull'auto, l'auto è il servizio in cui c'è maggiore informazione possibile, sia per obblighi di legge, sia per l'offerta delle compagnie. Sei d'accordo, e Maurizio Caprino? Può vedere che c'è una grande differenza di prezzo. Maurizio. E paradossalmente, però, la gente più cerca di informarsi e meno si informa. Mi spiego. Le offerte informative che noi abbiamo sono soltanto parziali, e non perché, non solo perché il preventivatore dell'IVA non ha tutte le espansioni tariffarie delle compagnie, quindi tutti i vari casi e sottocasi previsti dalle compagnie, ma anche perché quell'unico strumento che si era pensato per dare un'informazione completa, che è il cosiddetto contratto base, non è ancora decollato. Noi adesso abbiamo una situazione in cui c'è un enorme pluralità di formule. Ovviamente, per renderle confrontabili in modo omogeneo, dobbiamo ridurle a polizze confrontabili, quindi uguali. Questa operazione si fa col contratto base, quindi elaborare un contratto uguale per tutti, poi ognuno fa il conto delle personalizzazioni che vuole. Beh, questo contratto base previsto per legge non c'è ancora, insomma. Come mai il pacchetto Destinazione Italia non ha pensato di inserirlo tra i vari punti, visto che si sono occupati di altro, di carrozzerie, della scatola nera? Perché il contratto base non è stato sollecitato? Perché quella è un'altra partita che è in gioco su un tavolo tecnico, così come lo è un'altra grandissima determinante dell'alto costo, che è il sistema del forfè del risarcimento diretto. Magari poi spieghiamo cos'è, certo. C'è anche lì un tavolo tecnico molto delicato e speriamo di poter dare notizie nei prossimi mesi. Tra l'altro, diretto, abbiamo richiamato anche così il tema dell'indennizzo diretto, che aveva avuto largo successo tanti anni fa, ma anche quello strumento appunto per risarcire molto rapidamente i sinistri, poi negli anni è un po' scomparso dalla, diciamo, dal che non ha dato quei risultati. Vantaggi in termini di costi che tutti si aspettavano all'inizio. Allora, sentiamo un po' adesso quale altra parentesi apriamo sul nostro tema. Ritornerò. Dottor Verdone, non è una mia dichiarazione d'amore al suo indirizzo. Se l'assicurazione auto mette in ginocchio i nostri denari, l'auto mette in ginocchio il nostro ginocchio. Abbiamo in linea con noi il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno e bentornato, dottore. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie. E tanti sono i nostri ascoltatori che ci seguono seduti in macchina e che magari sentono proprio in questo momento, magari sollecitati da questo programma, qualche dolorino al ginocchio. A cosa devono prestare, dottor Respizzi, particolare attenzione? Io direi che il nostro organismo ci manda sempre dei segnali, qualunque parte del nostro corpo. E quindi, visto il tema, è un po' come se una spia gialla o rossa si accendesse nel cruscotto del nostro organismo. Quindi i sintomi ai quali prestare attenzione direi che sono: senti il ginocchio, cioè lo senti, perché di solito noi non ci facciamo caso nelle nostre articolazioni, c'è qualcosa che ti fa sentire il ginocchio diverso. Secondo passaggio, desideri muoverlo spesso, fletterlo, estenderlo piuttosto spesso mentre stai guidando, ti dà fastidio stare in quella posizione? E infine, senti anche un dolorino, un bruciore nella parte anteriore del ginocchio? Queste secondo me sono le tre spie rosse che devono farci pensare al ginocchio. Allora, riflettete su queste indicazioni che il dottore Spizzi ci ha dato, guardate la vostra posizione, riflettete su questa, osservate il vostro ginocchio e chiamate il numero verde 800 24 00 24. I consigli del dottore Spizzi torneranno dopo le 11:30. Adesso una domanda veloce di un ascoltatore, poi andiamo in pausa per i mercati. Chi sentiamo? Sentiamo Attilio da Roma. Buongiorno Attilio. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno a tutti gli telespettatori, gli ascoltatori. Volevo fare una domanda al vostro ospite. Io ho provato a fare a stipulare un'assicurazione per un motorino 50, 49 esattamente di cilindrata, un boxer, un vecchio boxer. E con mia grande sorpresa ho visto che il prezzo va dai 1200 euro per la responsabilità civile a un minimo di 680. Nell'ambito di... Ce ne ricompra tre praticamente, Attilio. Vale di più l'assicurazione del motorino. Allora io mi chiedo, ma in un momento in cui si sa, si fa molta attenzione all'inquinamento e a cose del genere, come si può permettere che un'assicurazione costi tanto, tanto cara, insomma. Certo. Attilio, le leggo che cosa scrive un collega, Roberto Bagnoli, questa mattina su Corriere Economia, ma anche il Sole 24 Ore ha uno speciale sulle assicurazioni che poi vi indico nel dettaglio. Roberto Bagnoli scrive: a Napoli per assicurare un motorino di 150 di cilindrata costa anche 30 volte più rispetto alla Germania, 639 euro contro i 23 di Berlino e 20 di Amburgo. Maurizio? Diciamo che non stupisce, perché in Italia noi oltre a essere italiani abbiamo anche il problema che utilizziamo troppo spesso le due ruote in città, perché siamo assolutamente costretti a farlo, perché la struttura delle nostre città, la carenza dei mezzi pubblici non ci consente di fare altrimenti. Certo. Quindi c'è tanta gente che farebbe tranquillamente a meno di usare il motorino, lo fa, o lo scooter addirittura, lo fa controvoglia, poi con scarsa perizia, quindi fa tanti incidenti. E addirittura, insomma, sono modificate le regole della circolazione. Ci sono in certe città, tra cui per esempio Roma, proprio delle prassi secondo cui praticamente intere corsie vengono percorse contro mano in certi momenti della giornata. E quindi, insomma, che dobbiamo fare? A Berlino questo non succede. Non credo proprio. A parte poi che qui abbiamo fatto il paragone con Napoli, che è un caso abbastanza singolare del nostro paese, sul quale magari poi ci ritorniamo a soffermare, però la differenza è veramente clamorosa. Allora ci fermiamo per i mercati. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Cuore e denari. Stiamo parlando delle nostre auto questa mattina, guidare serenamente, poi parleremo anche della guida sicura, che chiaramente va a vantaggio anche dei piccoli ospiti che possiamo avere nella nostra automobile, i nostri bambini, i nostri nipoti per quello che mi riguarda, ma stiamo parlando anche delle tariffe per l'RC auto, che è sempre un nostro grande cavallo di battaglia, visto che è uno dei temi che preoccupa di più il bilancio familiare, visto che le tariffe crescono, sono cresciute molto negli ultimi anni. Nell'ultimo anno, dice l'Associazione delle Assicurazioni Italiane, c'è stata una riduzione di circa il 5%, molti trasportatori, autotrasportatori, conducenti, automobilisti questo ribasso non lo hanno visto e ce lo stanno segnalando all'800 24 00 24. Ma adesso parliamo della nostra postura alla guida. Essere e benessere. Fatica a stendere il ginocchio, la sera lo sentite particolarmente dolorante, la colpa potrebbe essere anche del sedile della vostra macchina. Non ci avete mai pensato? E allora ci fa pensare a questo il nostro dottore Spizzi, che torniamo a salutare. Buongiorno dottore. Buongiorno. C'è un ascoltatore che ci scrive, poi ci appunto analizzerà il nostro ginocchio non a posto, che dice: la prossima auto sarà con il cambio automatico, così forse si starà meglio alla guida. È così? Secondo sicuramente lei? Sì, sicuramente sì, nel senso che meno cose ci tocca fare, meglio è, evidentemente. In quel caso, eliminando la frizione, perlomeno il ginocchio sinistro è completamente scarico e quindi non ha nessuna sollecitazione particolare. Quindi è un consiglio assolutamente da fare. Allora, è possibile, dottore Spizzi, che sentiamo il dolorino al ginocchio, ma molto spesso appunto non facciamo caso al fatto che possa essere una postura sbagliata in auto a provocare questo malessere? Esatto. Proprio perché è un dolorino e quindi lo sottovalutiamo. E invece il ginocchio, in particolare la parte anteriore, perché oggi parliamo di ginocchio, ma in particolare della rotula, cioè di quell'osso che sentiamo davanti al ginocchio, la rotula può avere una piccola infiammazione. La cartilagine della rotula appoggiata sul ginocchio può infiammarsi stando in una certa postura. Quindi ad esempio nel caso specifico dell'autista, che guida un'auto, col ginocchio troppo steso, troppo allungato, o troppo flesso è quasi improbabile in auto, perché vorrebbe dire andare contro il volante. Troppo esteso invece può essere una cattiva abitudine. Ci sono persone che amano guidare da sdraiati, perché mi sembra anche di fare una guida un po' più sportiva, e quella invece è una guida che non è assolutamente indicata. Il ginocchio deve avere un certo tipo di flessione, che tanto va bene anche per la schiena, quindi è l'ideale per entrambe le cose. Quindi un sedile un pochino più avanti, schienale un pochino sollevato e il ginocchio flesso tra i 60 e i 90 gradi. Adesso detto così magari è un po' complesso, se però immaginiamo completamente steso 0 gradi, è tutto completamente allungata la gamba. Mm. Man mano che io la piego, quando arrivo esattamente a 90 gradi, il ginocchio e la tibia in asse con 90 gradi di angolazione. Mm. Quindi un pochino meno dei 90 gradi, ma oltre i 60 gradi. Quella è la postura perfetta per far funzionare bene anche la rotula sul ginocchio. Certo. Dottore Spizzi, è chiaro che se uno ha male al ginocchio, anche 5 secondi in auto danno fastidio, fanno male, però certo, mediamente le ore passate in macchina possono fare la differenza. Quanto siamo in grado di tollerare, quanto il nostro ginocchio un po' così in difficoltà è in grado di tollerare la guida? Dunque, questo dipende dallo stato di infiammazione appunto della cartilagine della rotula. Più è infiammata e meno autonomia abbiamo. E proprio per questo motivo noi dobbiamo cercare di non sollecitarlo più di tanto. Quindi io penso che una guida di circa un'ora, un'ora e mezza al massimo debba essere interrotta in ogni caso, soprattutto se uno ha male, naturalmente, per fare in modo che lo stato infiammatorio si riduca un po', che la sollecitazione si riduca. C'era un'osservazione di Maurizio Caprino per lei. Sì, parlavamo di postura di guida ed effettivamente coincide il fatto che il ginocchio debba avere quel tipo di angolazione fra 60 e 90 gradi, coincide anche con i dettami della cosiddetta guida sicura che contrariamente a quella pseudo sportiva che prevede, e dico pseudo perché in realtà i veri piloti non guidano stesi, esatto, ma guidano anzi molto raccolti, e lo diciamo a tutti quelli che sono in auto per evitare di incorrere in questi errori giganteschi che oltretutto appunto compromettono la sicurezza. Però c'è il problema che soprattutto con l'affermarsi di vetture a seduta alta, quindi parlo delle monovolume, delle crossover, le SUV, eccetera, eccetera, sedersi, avere questa postura molto alta e anche molto apprezzata dal pubblico, significa anche spesso compromettere questo tipo di assetto, perché poi il volante casca in maniera troppo orizzontale e costringe a mettersi, se si vuole conservarne il pieno controllo, costringe a mettersi troppo addossati e quindi flettere persino in modo eccessivo. Quindi probabilmente è un compromesso molto delicato da prendere caso per caso, da trovare caso per caso. Dottore Spizzi. Assolutamente d'accordo, tant'è che queste auto che vengono considerate molto sicure, questo tipo di auto non è molto comode anche, non è poi vero, è difficile parcheggiare, consumano di più, sono macchine antipatiche non solo per motivi così diciamo sociali, ma anche perché in effetti poi non sono per davvero così comode. Mm-hmm. Tra l'altro attualmente gli automobili hanno fatto passi da giganti, i progettisti, perché ad esempio una cosa molto comoda, il cambio automatico l'abbiamo già detto, un altro è il cruise control, cioè la possibilità quando si è in autostrada e si è tranquilli di poter bloccare l'acceleratore ad una certa velocità che si è impostata, e quindi io posso muovere anche a questo punto anche la gamba che utilizzo per acceleratore e freno. Quindi questo è un altro strumento, un altro optional che io consiglierei quando si va a acquistare un'auto a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, appunto di acceleratore, a proposito di questo, dottor Respizzi, schiacciare il pedale fa la differenza per il nostro ginocchio dolorante? Direi proprio di no, ormai le macchine sono talmente morbide che a meno che non debba fare una frenata violentissima, ma quella è un'emergenza. Certo. Direi di no, ormai. C'è un ascoltatore, dottor Respizzi, che ci scrive, è un medico e ci scrive molto spesso sul nostro profilo Facebook: evitate l'uso degli antinfiammatori che alzano la soglia del dolore. Chi per lavoro è costretto alla guida e deve sempre portarsi dietro anche necessariamente il ginocchio con qualche problema, dottor Respizzi, deve stare attento anche all'uso o all'abuso di antinfiammatorio? Direi assolutamente l'abuso, perché come ho detto nella premessa, se questa è una spia rossa, se il dolore è la spia rossa che mi sta dicendo che c'è poco olio nel motore, sarebbe stupido non guardarla. Il dolore va ascoltato, il dolore è un segnale positivo che il nostro organismo ci dice, è una comunicazione, e quindi sedare il dolore con farmaci antinfiammatori abusandone spesso vuol dire chiudere gli occhi se vedo la spia rossa dell'olio basso nel motore, quindi è assolutamente stupido farlo. Allora, dottore Spizzi, ci sono delle domande per lei da parte di alcuni ascoltatori, ma siccome abbiamo tutte le linee praticamente occupate da altri ascoltatori che chiedono informazioni sull'RC Auto, le chiedo se lei può di fermarsi ancora qualche minuto con noi, così rispondiamo a coloro che hanno la precedenza e poi diamo spazio anche a chi ha qualche problema col ginocchio. Riesce a stare con noi ancora un po'? Volentieri, Deborah. Molto bene, grazie. Allora, sentiamo subito Paolo da Parma e poi Walter da Bari e mettiamo un po' di così carne sul fuoco per Vittorio Verdone e Maurizio Caprino. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Si sente parlare spesso dei vantaggi della globalizzazione, del mercato unico europeo, eccetera. Io mi chiedo, si potrebbe andare in Germania o in qualche altro stato e fare l'assicurazione lì dove costa molto meno? Grazie. Paolo, grazie molte. Dubito, visto che poi circoliamo in Italia e le caratteristiche italiane sono quelle, anche se magari così apparente. Non credo proprio, Maurizio, che sia possibile. No, peraltro una compagnia è autorizzata a operare in Italia, cioè nei singoli paesi, intendo dire. Poi sì, ci sono dei riconoscimenti mutui a livello europeo, procedure facilitate, però assolutamente dobbiamo tener conto che una compagnia straniera, se anche operasse in Italia, tra l'altro operano fior di gruppi a matrice straniera in Italia, poi le tariffe le fa sull'Italia. Quello a cui si riferiva invece l'ascoltatore è un abuso che tra l'altro si accompagna spesso all'evasione fiscale, cioè avere un leasing diciamo di comodo in paesi appunto come la Germania, quindi circolare con targa tedesca oppure addirittura bulgara o dell'est europeo, e allora lì ovviamente l'assicurazione fa come se l'auto in Germania o in Bulgaria. Tra l'altro questo sta creando problemi perché un'assicurazione dell'est non paga come un'assicurazione italiana, quindi poi alla fine ci perdiamo tutti noi, perché un fondo alimentato da tutti noi deve dare la differenza. Certo, quindi... che la madre dei furbi è proprio costantemente col pancione. Allora sentiamo adesso un'altra domanda, poi andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio. Oltre a tutti quelli che stiamo già dando stamattina, sentiamo anche cosa sta succedendo sulla circolazione stradale. Commento di Walter da Bari. Walter, buongiorno. Buongiorno, io telefono da Bari, ma mi sono trasferito da Reggio Emilia 2 anni fa e ho notato che trasportando l'assicurazione da Reggio Emilia a Bari, l'aumento a parità di condizioni è stato fortissimo. Di condizioni, Walter, perché è andato in un'altra città, quindi una condizione rilevante è cambiata. Intendevo a parità di condizioni, certo, l'hai assicurato sulla macchina, eccetera. E questo, a mio parere, bisognerebbe avere una tariffa unica nazionale, perché siamo tutti italiani, e fare qualcosa per evitare gli abusi e combattere gli abusi in maniera seria, perché vengono penalizzati tutti e continuerà a essere uno stato di fatto che non cambia. E invece sai che cosa fanno le compagnie? Come dire, l'idea di combattere gli abusi è quella di non assicurare più in certe località d'Italia, perché in questi ultimi anni è successo anche questo, Walter. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. E noi la aggiusteremo con il Chewing Gum. Abbiamo fatto un bel tuffo nel passato, Maurizio, quando andavamo in gita, perché anche noi l'abbiamo cantata questa canzone sul pullman, e anche Vittorio Verdone, forse, vero? Stamattina molta nostalgia, perché tra la canzoncina della macchina del capo e il boxer che anche io ho avuto in gioventù, insomma, siamo proprio sulla... Molto bene, senta, rispondiamo alla così considerazione fatta dall'ascoltatore che da Reggio Emilia si è spostato a Bari. Lui dice: a parità di condizioni a Bari l'assicurazione mi costa molto di più. Una condizione molto importante cambiata è quella proprio della territorialità. Questa differenza fra nord e sud è stata denunciata più volte, le motivazioni per cui è così le conosciamo bene, però lui dice che bisogna fare delle azioni veramente incisive per combattere gli abusi. Quali ha fatto l'ANIA in questi anni, dottor Verdone? Ma diciamo, l'ANIA sicuramente ha spinto perché si correggono alcune disposizioni che favoriscono questi comportamenti speculativi. Per quanto riguarda l'antifrode specifica, abbiamo dovuto chiudere un nostro settore per motivi di privacy, ma per fortuna c'è una norma che ancora, diciamo, è in fase di attuazione, che sta riorganizzando presso l'IVAS una struttura antifrode che, quando partirà però nella sua interezza e non solo come incrocio banche dati, darà sicuramente aiuto sia alle compagnie sia alle forze dell'ordine sia alla magistratura inquirente. Due risposte veloci a Paolo, che parlava di globalizzazione. Ricordiamo che se una compagnia tedesca, il suo esempio, adottasse le stesse tariffe che applica in Germania, in Italia fallirebbe in giro di un anno, perché chiaramente i costi di base sono quelli che sono emersi anche nell'indagine che noi abbiamo commissionato. Per quanto riguarda il fattore territoriale, è molto importante, è una differenziazione che non opera solo in Italia, proprio da questa stessa ricerca risulta che per esempio in Gran Bretagna c'è ancor più forte un fattore di differenziazione territoriale. Ahimè, spesso questo fattore non è dato solo dalla presenza di maggior sinistrosità, diciamo congenita, no? Quindi legata al traffico piuttosto che alle condizioni delle strade o ai comportamenti alla guida, è legata, come si diceva prima, a fattori speculativi. In alcune aree del paese sono più presenti, nelle norme dell'ultimo decreto legge c'è qualcosa che diciamo, consentirà di arginare le piccole speculazioni, perché ricordiamoci che la normativa sulla liquidazione di sinistri RC auto in linea di massima è una normativa di protezione del danneggiato, soprattutto per la previsione di tempi di liquidazione molto stringenti e soprattutto perché la compagnia, se non li rispetta, viene sanzionata. Mm-hmm. All'interno di questi tempi molto stringenti e di operazioni che vanno effettuate si annidano però delle possibilità di speculare, e allora il decreto interviene per esempio su alcune norme relative alle testimonianze. Le testimonianze dovranno essere indicate da subito nella richiesta di risarcimento, non era così prima, e quindi magari dopo molti mesi dal sinistro compariva un testimone che in realtà non è tale, e la compagnia chiaramente, ma anche il giudice, lo deve sentire poi in un eventuale giudizio e viene condizionato. Non è che può comparire certo un testimone improvvisamente dopo sei mesi fatte che c'è. Tardive, le richieste di risarcimento fatte oltre tre mesi, non si vede il motivo, tranne chiaramente i casi di forza maggiore. Ovvio. In cui il danneggiato è grave, quindi non è in condizione. Non può magari ricostruire certo un incidente, un sinistro. Dottor Verdone, sugli altri punti ci torneremo fra un istante. Adesso abbiamo due domande per il dottor Respizzi da parte di Maurizio da Biella e Daniele da Milano, a cui chiedo sintesi. Maurizio, buongiorno, eccoci qua. Sì, buongiorno, Maurizio. Sì. Dunque, io faccio 58 anni. Maurizio, non sentiamo più niente, la ripeschiamo al volo. Daniele da Milano. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Mi sentite? Certo. Io vi sento molto lontano. Comunque la mia domanda era questa: io volevo sapere se un'infiammazione del piriforme, che non ha niente a che vedere con il ginocchio, possa essere causata da una cattiva postura durante la guida. Daniele, grazie. Dottor Respizzi, il piriforme in che parte è del nostro corpo? Nelle chiappe, quindi è fantastico. Ne abbiamo due, chiappa destra e chiappa sinistra. Okay. È un muscoletto maledetto, piccolino ma molto fastidioso, che quando si infiamma, è molto quindi contratto, che si infiamma, ecco, quando è molto contratto. E è tipicamente irritato, infiammato nel momento in cui io utilizzo una postura scorretta. Quindi confermo quanto detto dall'ascoltatore. Una postura scorretta in auto può provocare una contrattura del piriforme, che poi è molto fastidiosa e difficile anche da far certo passare. Maurizio da Biella, che non riusciamo a recuperare, voleva chiedere, essendo un autista a vari dolori, sta provando a spostare in ogni modo il sedile, voleva dei consigli ma non riusciamo a riprenderlo, appunto. Un altro ascoltatore invece, Paolo, ci racconta che fa 600 km a settimana e ha una riduzione della cartilagine del ginocchio, ha fatto l'attacco, il dolore permane, che deve fare? Dice: devo cambiare mestiere. La riduzione della cartilagine addirittura può arrivare per una postura errata al ginocchio durante la guida? No, direi di no, nel senso che una riduzione della cartilagine può essere un segno del tempo che passa, quindi bisognerebbe capire quanti anni ha questo signore, certo, da quanti anni fa questo mestiere. No, direi di no, che la postura non consuma la cartilagine, per fortuna. Può mettere però in evidenza qualcosa che esiste già, quindi magari una cartilagine un po' consumata, un po' usurata per altre attività che magari la persona ha svolto, o attività sportive o lavorative molto intense. Però la riduzione della cartilagine è un po' come dire: prima o poi le rughe ti vengono. Ecco. Non lo ricordi proprio ad una signora, dottore Spizzi? No, perché ma io non parlavo è carino con l'ascoltatore, io parlavo certo con l'ascoltatore, mica con lei. Senta, un'ultima cosa, perché visto che il tema Nati che l'ha sollevato poco fa, un ultimo ascoltatore, Gabriele, dice: il lavoro, sto tante ore in macchina, soprattutto in autostrada, nei lunghi tragitti, dopo un paio d'ore continuo mi fa male la natica sinistra. Il fastidio poi prosegue anche per il giorno successivo, è un problema di postura, l'abbiamo capito, e quindi bisogna sforzarsi un attimo di guidare cercando di alleviare, no, questo peso sopra una parte del corpo specifica. Sì, e soprattutto bisogna capire come si mette questa persona seduta in macchina, la gamba sinistra è quella della frizione, sei in autostrada mi sembra improbabile che la usi, però ecco, probabilmente tiene la gamba sinistra in una posizione viziata che non è l'ideale. Comunque in questi casi il consiglio generale è fermati ogni tanto, ogni 100-150 chilometri, fai due passi, non fumarti una sigaretta e poi ricomincia. Ottimo, dottore Spizzi, grazie molte per averci dato un po' più del previsto del suo tempo, come da me richiesto. Buona giornata. È stato un piacere, arrivederla. Grazie molte, a presto. Buongiorno. E noi abbiamo adesso un altro ospite, lo presento, non riesco a fargli dire quello che dovrebbe dire, lo rimando a dopo, ma più che le natiche, gli ha fatto male un po' così, un po' lo stomaco, la pancia, e parlo dei carrozzieri d'Italia. Andrea Marinucci, CNA Autoriparazione Roma, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, grazie per la sua disponibilità. Abbiamo due minuti, però forse possiamo già anticipare i termini del suo intervento, perché abbiamo detto che nel pacchetto Destinazione Italia, del quale stiamo parlando da questa mattina, fra i tanti punti che sono stati inseriti in questo provvedimento per combattere questo fenomeno, questo tema dell'assicurazione auto molto alta, c'è anche la questione del a chi rivolgersi quando appunto si verifica un sinistro. Ci rivolgiamo al nostro carrozziere di fiducia o alla compagnia o al carrozziere designato appunto dalla compagnia di assicurazione? Il pacchetto Destinazione Italia vorrebbe far prevalere quest'ultima ipotesi, no? Ma voi non ci state, perché? Perché? Non ci siamo perché domande? Chiaramente le compagnie di assicurazione tenderanno a stabilire un loro tempario e un loro prezzario a discapito della sicurezza stradale. Ah, e che sarebbe molto diverso dal vostro, evidentemente, quindi per un danno, se voi fate pagare una certa cifra, lei dice insomma con questo provvedimento si abbatterebbero per esempio anche questi tariffari? Senza dubbio, perché le darebbe la libertà di mercato. Chiaramente i tempari non saranno più decisi dagli autoriparatori e dalle assicurazioni, ma solamente dalle assicurazioni. Cioè, voi avete detto in questa manifestazione che avete organizzato a Roma il 15 gennaio, senza concorrenza non ci sono diritti. È vero, non c'è libertà, soprattutto, oltre che diritti. Quanti siete in Italia, Marinucci? Siamo 17.000 e chiaramente molte aziende stanno a rischio chiusura. Senta, che tipo di reazione ha suscitato questa vostra manifestazione romana? Vi hanno ascoltato? Senza dubbio ha avuto un esito positivo, perché le varie associazioni e federazioni stanno cercando di obbligare il ministro a prendere in considerazione alcune modifiche a questo comma 8. Non sappiamo il risultato, perché chiaramente dobbiamo combattere contro banche e compagnie di assicurazione. Aspetti lì, allora, quella tra l'altro di quale stavamo parlando è il tema della forma specifica del risarcimento dei danni ai veicoli incidentati. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Evitando le buche più dure, proprio con Maurizio Caprino stavamo parlando di qualche città italiana laddove la qualità del manto stradale lascia un po' a desiderare, e quindi anche qua qualche amministrazione però magari avessero i soldi per poterle mettere a posto. Detto questo, quello di cui parliamo noi questa mattina è l'RC Auto, del fatto che è stato ancora una volta confermato come le polizze che pagano gli automobilisti italiani siano le più care d'Europa, con enormi differenze con gli altri principali paesi europei. Stiamo parlando, le abbiamo toccato un po' le misure previste dal pacchetto Destinazione Italia, che interviene sul tema delle riparazioni. Abbiamo parlato poco fa con il presidente dei carrozzieri italiani, molto arrabbiati per le misure contemplate da questo provvedimento. Ma c'è anche il tema della scatola nera. Maurizio Caprino, che cosa prevede il provvedimento? Prevede sconti per chi li monta, per chi monta la scatola nera. Il problema qual è? È che le compagnie sono fatte di conti diversi, nel senso che per loro la scatola nera serve soprattutto per fare sconti nelle zone più soggette a frode, dove la scatola nera può dare maggiori risultati. Estenderla così semplicemente a tutto il territorio nazionale significa drenare risorse verso l'obiettivo di dare sconti in certe aree del territorio, e poi c'è anche da dire il fatto che generalizzare la scatola nera significa probabilmente anche mettersi nelle mani, consegnarsi diciamo nelle mani di produttori e provider di servizi sulle scatole nere, e questo probabilmente diminuirebbe la convenienza economica per le compagnie. Teniamo anche conto che i dati, per quello che stabilisce il decreto destinazione Italia, dovrebbero confluire in una banca dati presso il CIS, quindi praticamente una struttura del Ministero dei Trasporti, e quindi tutto questo crea delle perplessità. Oggettivamente poi c'è anche da dire che anche sull'utilizzabilità delle risultanze della scatola nera ci potrà essere, nella pratica ci potranno essere problemi, perché nascerebbero secondo me problemi proprio giuridici, cavilli, contenziosi notevoli. In Italia sappiamo che va sempre a finire così. Esatto, che poi sicuramente gli automobilisti non sarebbero molto contenti di installarla, anche per ragioni legate alla privacy, secondo me, perché comunque è un attrezzetto che documenta un po' tutti gli spostamenti, dato che già non amiamo pagare il casello autostradale con il bancomat o con il telepass, figuriamoci la scatola nera che ci segue ovunque, no? Assolutamente sì. E poi tra l'altro la scatola nera potrebbe servire anche per un diverso modo di tariffare, il che va bene a chi usa l'auto poco, va molto meno bene a chi la usa tanto e con determinate modalità. 800 24 00 24, continuate a raccontarci quanto spendete per la vostra auto, non di benzina, non di riparazione, ma di assicurazione. Sono pronti Vincenzo dalla provincia di Milano, Giorgio da Belluno, Carmine da Roma, e Marco su Twitter ci scrive: ho risparmiato circa 230 euro installando la scatola nera. Ma sono questi, dottor Verdone dell'ANIA, i risparmi dei quali stiamo parlando? Perché veramente su 230 euro, allora qua faremo una battaglia per poterla installare tutti quanti, anche se voi non siete proprio contenti. Ma non è che non siamo contenti, la scatola nera l'abbiamo lanciata noi come mercato. Sì, no, ma che è anche comunque un investimento per voi. La tecnologia. Il problema è che non si può dire rispetto a Marco da quale situazione partisse, nel senso che non è che c'è un risparmio sempre della stessa entità. Come diceva Maurizio Caprino, poi ricordiamo che i costi sono a carico delle compagnie, quando le compagnie dicono: noi possiamo sostenere delle riduzioni di premi di una certa entità in alcune zone, perché in quelle zone i premi, a causa dei fattori che ricordavamo prima, sono più alti. La scatola nera agisce su molti di questi fattori di fraudolenza e quindi è utile. A quel punto posso fare uno sconto, che però deve tener conto del fatto che io devo affrontare dei costi. Quando il governo interviene con provvedimenti, diciamo, di imposizione molto generale in tema di sconti minimi obbligatori, innanzitutto fa un'operazione inefficiente dal punto di vista economico, perché comunque appiattisce, diciamo, l'offerta. Io dubito anche che sia concorrenza. Quanto costa la tecnologia? Non intervenga su questi aspetti, invece di ricordare sempre che le imprese devono fare più concorrenza, potrebbe andare a verificare se alcuni provvedimenti hanno dei meccanismi anticompetitivi. Ma quanto costa la tecnologia della scatola nera, dottor Verdone? Guardi, la scatola nera come minimo mediamente costa 70 euro tra installazione, spese soprattutto di collegamento con le centrali che poi seguono il veicolo. Una ultima battuta sulle scatole nere in tema di privacy. A me sembra eccessiva la preoccupazione, visto che ma non li conosce gli italiani, guardi che ma siamo controllati quotidianamente. Appunto. Tramite telefonini, computer, ci arrivano dei messaggi però, addirittura sui nostri orientamenti, però con la macchina chissà che mete solo si perché abbiamo consultato raggiungono un tal sito internet. A me sembra un'esagerazione, francamente. Lo so, però le posso assicurare che guardi, sul tema della privacy ad ogni livello gli italiani sono molto suscettibili, lo abbiamo dimostrato parlando del redditometro, ma basti, appunto, ribadisco, vedere l'abitudine che hanno a pagare in contanti quando escono dall'autostrada. Lei lo sa bene che file ci sono appunto ai caselli, quella del telepass è sempre deserta, qualcuno passa a pagare col bancomat o con la carta di credito, ma le file appunto per pagare in contanti sono sempre interminabili. Chi sentiamo adesso? Due ascoltatori che aspettano da tanto. Carmine da Roma all'800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto, Carmine. Senta, io volevo andare un po' contro tendenza, diciamo, per quello che si è detto in studio. Bene. Io sono residente a Roma e ho sia lo scooter che l'auto. Mm-hmm. C'ho un ritorno Non sappiamo Ciao. Come fare, Carmine, perché io la sento molto bene. Ha una radio accesa vicina? No, no. Allora, guardi, magari siccome lo vedo sintetizzo io il suo intervento. Lui voleva dire... No, ma ce la posso fa. Andare avanti se vuole. Perfetto, vada. Allora, pago 350 euro per annui per il mio scooter, 14esima classe, comprato usato. Per la mia auto prima classe 350 euro sempre annui. Quello che volevo dire che bisogna impegnarsi un po' a cercare anche l'offerta che fa per sé. Sì, è quello, è un messaggio che bisogna lanciare assolutamente, perché parlando un po' con i miei colleghi vedo che c'è molto pessimismo per quanto riguarda le assicurazioni online. Certo. Bisogna dire che anche chi non è online in un certo senso, perché tutte le assicurazioni sono in rete, diciamo. Certo. Grazie Carmine, che la sentiamo un po' lontana, ma il succo del suo intervento l'abbiamo capito. Intanto bisogna che ci muoviamo un po'. Su questo Carmine ha ragione. Poi sulla validità più alta, diciamo, della compagnia diretta piuttosto a quella tradizionale, un altro discorso. C'è chi trova oggettivamente dei vantaggi economici molto rilevanti. Sul tema poi del servizio, quando capita qualcosa è lì che un po' sono diffidenti gli italiani. È lì, purtroppo, nell'ambito assicurativo è sempre quello il grande tema, e bisogna un po' fidarsi, ma soprattutto, ecco, io quello che voglio dire, le compagnie dirette vanno benissimo, però vanno benissimo a chi abita come Carmine a Roma. Uno che abita a Napoli non ha di fatto neanche questa possibilità, perché i prezzi delle compagnie dirette sono altissimi in certe zone del paese. Mm-hmm. Allora sentiamo adesso Giorgio da Belluno, che è fantastico, che invece la pensa in maniera radicalmente diversa rispetto all'ascoltatore precedente. Giorgio, buongiorno. No, io non è che la penso come l'ascoltatore precedente. No, in maniera diversa, ho detto, radicalmente diversa. Buongiorno. E no, io sono assolutamente certo che in questo paese, come al solito, ci si divorzia più volentieri dalla moglie che dalla banca o dall'assicurazione. Perché la perseguitano, Giorgio? Ma sì, la sua banca, perché, la sua assicurazione. Ma perché siamo fatti così? Io ho appena cambiato l'assicurazione 6 mesi fa, ho un 2000 turbo diesel, pago 340 euro di assicurazione, ho il tutore, là, come si chiama? La scatola nera? Sì, ma che è una cosa eccezionale, perché basta premere il bottone e ti arrivano ed è l'installazione è gratuita. Mm. Il soccorso è gratuito, pago 340 euro, meglio di così io non ho mai pagato nessuna assicurazione meno di questa. Allora, in questo paese bisognerà anche cominciare ad essere un po' più moderni e non continuare ad essere sempre i soliti italiani che sono diffidenti di tutto e di tutti. Molto bene. Verdone, lei ha trovato due testimonial stamattina eccezionali? Vuol dire che ogni tanto le cose che diciamo sono confermate, perché sembra quasi che noi diciamo cose che non esistono nella realtà. In realtà esiste molta concorrenza, esiste molta offerta, i prezzi medi non sono quelli che alcune volte appaiono sui giornali, perché si pubblicano alcune punte a prezzi che nessuno sosterrebbe mai per comprare l'RC Auto. Insomma, facciamo molta informazione oggi e sono contento. Maurizio Caprino, no, tra l'altro invece la figura dell'assicuratore, no? Sai, quello con il quale siamo cresciuti, perché mio papà effettivamente aveva una relazione molto stretta con un suo amico, perché era una persona appunto che conosceva molto bene, che gli vendeva la polizza. Adesso questa figura esiste più in questa immagine che io ne ho conservato relativa al mio passato? No, diciamo che va cambiando, poi sul territorio ci sono varie realtà che si evolvono magari a velocità diversa, ma sicuramente va cambiando, tant'è che proprio anche a livello di categoria, di sindacato di categoria, si sta svoltando verso nuovi orizzonti, anche un'integrazione col web. Sicuramente dovrà evolversi verso una figura più, diciamo, consulenziale, perché prima di questo rapporto di fiducia si è anche un po' abusato, trasformandosi in meri venditori di polizze, anche, diciamo, con la complicità delle compagnie. Adesso questa concorrenza che volenti o nolenti sta pervadendo il mercato, anche proprio per il livello dei prezzi, diciamo che sta portando a un'evoluzione. Non sappiamo ancora esattamente dove ci porterà, e comunque dobbiamo sempre tener conto che dietro una polizza che oggi noi troviamo conveniente cambiando compagnia, dobbiamo pensare che ci potrebbe essere la necessità di cambiare compagnia già l'anno dopo, perché in fase di rinnovo la musica può cambiare anche di tanto. Senti, perché cambia tante volte il mutuo? Perché abbiamo avuto in questi ultimi anni la possibilità di fruire dell'istituto della portabilità. Ad un certo punto le banche sono molto attente, perché parlano, questo è un termine che ha coniato credo il nostro collega Vito Lops, di surrogatore seriale. Secondo te succede anche nel settore assicurativo questo? Chi cambia più volte compagnia viene poi guardato con sospetto dall'ultima alla quale arriva? Beh, può essere, perché anzi ci sono casi documentati di frodi, le cosiddette frodi assuntive, che sono stati oggettivamente, si sono già verificati e già da tanti anni. L'unico antidoto che le compagnie devono utilizzare è quello di verificare il rischio che assumono, quindi far controllare per esempio se l'auto esiste davvero, se è veramente in buone condizioni, e le compagnie hanno ammesso che questa cosa non riescono a farla su tutto il territorio nazionale. Lo hanno ammesso una settimana fa e questo mi ha onestamente molto preoccupato. Ciao! Cosa hai fatto? Ero seduto con mamma sul sedile di dietro e papà è andato a sbattere contro un'altra macchina. E la tua mamma non ti ha tenuto? Sì, ma quando la macchina sbatte ti fa volare se non sei sul seggiolino. Io, infatti, ho sbattuto sul vetro. Questa è una campagna televisiva che molti di voi avranno avuto occasione di seguire. Allora, fino a questo momento abbiamo parlato solo di adulti, ma con noi viaggiano anche i bambini ed è importante, fondamentale, è un nostro impegno dal quale proprio non possiamo prescindere, farli viaggiare in tutta sicurezza. A questo proposito, sia il codice della strada che la normativa europea rendono obbligatori i dispositivi di ritenuta per i bambini in auto dalla nascita fino al raggiungimento dei 36 kg di peso, che corrispondono addirittura, pensate, ai 12-14 anni. Noi oggi ne parliamo con il dottor Antonino Reale, responsabile della pediatria di emergenza al Bambin Gesù di Roma. Buongiorno dottore, grazie. Buongiorno a voi. Allora, la scelta del sistema di ritenuta per l'auto, navicella, seggiolino, lovetto, l'adattatore in base al peso e all'età del bimbo, non deve essere presa alla leggera, no? Perché questo è uno sicuramente degli acquisti più importanti per la sicurezza dei nostri bambini. Ci dà subito le sue raccomandazioni? Sì, innanzitutto rapidamente dei numeri: 10.000 bambini coinvolti in incidenti d'auto l'anno, la prima causa di morte tra i 5 e i 14 anni, e per un bambino morto corrispondono 5-6 bambini con gravi lesioni permanenti. Basterebbe questo per far capire l'importanza dei sistemi di ritenzione. Ancora un'altra cosa riguarda i bambini, che come le ha detto sono diversi dagli adulti, perché un bambino per la sua conformazione anatomica è più morbido e ha una percentuale di acqua maggiore, per cui i traumi risultano sempre più dannosi. Pensate che con un impatto a 50 km orari di un bambino di 4 anni produce una forza d'urto di circa 400 kg, quindi tenere i bambini in braccio davanti o dietro che sia è pericolosissimo. Molto spesso, per risparmiare qualche volta magari un dispositivo, dottor Reale, lo si tiene per anni e magari anche quando il bambino non c'entra più. Lo so che è un investimento che qualche volta non si fa volentieri, perché è una spesa in più, magari è appunto uno strumento che serve solo per pochi anni, però ecco, l'età giusta e il dispositivo giusto, è corretto? Investire in sicurezza è decisamente meglio che investire in altre cose molto più futili. Sicuramente sarebbe anche utile passarsi sistemi di ritenzione fra amici, parenti o quant'altro. In alcuni ospedali del nord i sistemi di ritenzione vengono donati a un apposito deposito dell'ospedale, dove altre persone che magari hanno meno possibilità economiche possono poi accedere. Quindi è una riutilizzazione, perché come ha detto lei durano abbastanza poco, perché devono essere modificate secondo il peso e l'età del bambino. Ecco, senta, no, lei mi ha colpito mentre leggevo proprio questa indicazione relativa al fatto che occorre mantenere il dispositivo di ritenuta per i bambini in auto fino a quando questi non raggiungano i 36 kg di peso. 12-14 anni, mi è capitato molto raramente, dottor Reale, di vedere un dodicenne ancora seduto in un seggiolino dietro alla nella macchina, appunto nel sedile posteriore. Stiamo parlando a questo punto della cintura di sicurezza, credo, a quell'età. Sì, ma direi quasi nessuno più che raramente. I dati Istat parlano del 62%, uno studio anche fatto dall'ACI, del 62% dei bambini non utilizza i sistemi di ritenzione, a maggior ragione quelli più grandini, quelli che si pensa che avendo 10-12 anni possono in qualche maniera essere più attenti durante la guida del papà, in qualche maniera prevenire un eventuale incidente frontale e farsi meno male. Non è assolutamente così, si paga un prezzo ancora elevatissimo per la disattenzione e l'incuria da parte dei genitori. C'è un ascoltatore da Parma che scrive: i seggiolini sono complicati da usare. Ecco, forse lo abbiamo addirittura pescato al telefono. Antonino, buongiorno. Buongiorno, sì, intervengo brevemente. Grazie. Credo che il problema più serio per l'uso dei seggiolini e comunque degli strumenti di ritenuta è che sono oggettivamente difficili da usare. Mm-hmm. Ci vuole anche un minuto, soprattutto in inverno, sì. Magari piove, i bambini hanno dei piumini e così via. Esatto, pensi alle mamme che hanno la borsa della spesa, sono piene di cose, ecco, lo so. E questo, a meno che uno non è assolutamente determinato, come posso essere io in questi casi, certo. Che decido di farlo assolutamente ogni caso e sempre e comunque, uno viene dissuaso, magari per i piccoli percorsi in città e così via. Si è portato in un fatto, andrebbero migliorati i seggiolini. Antonino, guardi, raccogliamo questo messaggio, lo giriamo magari all'industria di settore. Vedo che scuote però la testa Maurizio Caprino, perché dipende molto spesso anche all'auto. Sulle utilitarie è molto più difficile trovare proprio l'aggancio della cintura, quindi è una richiesta che dobbiamo fare di più all'industria dell'auto. Ovviamente le utilitarie sono le più utilizzate in città e quindi è un circolo vizioso, però se si è assolutamente determinati vi posso garantire che il bambino a un certo punto impara persino da sé. Io ho una figlia che è una testa dura tremenda, però chissà da chi ha preso, guarda, ma da un uomo molto determinato. Però insomma ricordiamoci che i bambini hanno i muscoli del collo molto deboli, per cui, dottor Reale, dobbiamo assolutamente assicurarci che il capo non ciondoli eccessivamente, e questa è la prima cosa. Sì, effettivamente, come dicevamo prima, la conformazione anatomica del bambino influisce molto sul tipo di danno che si ha, proprio per questa lassità nei più piccoli, soprattutto della muscolatura in generale, del capo, del collo in particolare, per cui il cosiddetto colpo di frusta per un adulto diventa per un bambino una situazione tragica, perché la botta può essere molto forte. Questo è il motivo principale per cui vanno sempre messi, diciamo, antemarcia, dalla parte contraria dell'andamento della macchina. Secondo lei da quale lato va messo il seggiolino? Dipende da qual è il miglior aggancio, appunto, con il sedile, oppure secondo lei bisogna privilegiare un lato piuttosto che un altro? Ma più che il lato direi sempre posteriormente. Quella cosa di "ma è disattivo l'airbag", secondo me è una cattiva abitudine anche quella, mettendo i bambini nel posto anteriore vicino al guidatore, perché poi l'airbag va riattivato per l'adulto, ci si scorda, alla fine ci si stufa. Quindi sempre posteriormente, preferibilmente nel posto di destra, diciamo, quindi dietro il posto del passeggero. Dottor Reale, grazie molte per le sue raccomandazioni, alle quali penso che spesso non ci si pensa. Sì, e quindi stamattina abbiamo sollevato anche l'attenzione su questi aspetti molto importanti. Grazie, buona giornata. Grazie a voi per la sensibilizzazione. Grazie a lei. Fabiola su Facebook ci scrive visto che state parlando di bambini. A Pordenone nessuno mette le cinture quando sono seduti dietro, bisognerebbe obbligare i comuni a fare prevenzione fuori dalle scuole, quindi un'altra sollecitazione, e ci fa molto piacere. Non so se riesco a sentire un ultimo ascoltatore, abbiamo un minuto di tempo, non credo. Vincenzo dalla provincia di Milano voleva segnalarci che ha tamponato un'auto, non ha creato danni alla macchina ma ha dovuto dare 6.000 euro, sono certo di essere stato vittima di una truffa. Questo è un altro mondo, lì si va da carabinieri, Maurizio. Assolutamente sì, però con poche speranze, ahimè. Bisogna premunirsi al momento del fatto, assolutamente. Quindi ecco, non abbandoniamo, anche se siamo molto nervosi per l'incidente che ci è capitato, non molliamo, insomma cerchiamo di riacquistare rapidamente la lucidità, perché sennò poi non ci ricordiamo e 3 mesi dopo non si possono riaprire le questioni. Berdone, grazie. Grazie, volevo dire un'ultima cosa. I bambini sono più leggeri, attenzione, legateli sempre, perché in città c'è un luogo comune fasullo che i sinistri sono meno gravi, invece la maggior parte avviene in città. Legateli, io ne vedo tantissimi che stanno in piedi tra i due genitori e mi fermo ai semafori e dico: guardate che vostro figlio così leggero, se c'è un tamponamento a 40 km all'ora esce dal finestrino anteriore. Bravo Vittorio Verdone, che si ferma pure in strada a fare un po' la ramanzina, genitori non troppo attenti. Grazie a tutti, noi ritorniamo domani, buona giornata.